tutti buona notte. Cosa c'è? Offrenini! Mrs. Rance, fra poco, no, alza l'incidente, mi risvede, tutto di te, ragazzo, e mi si chiedevo, mi compagnisco, mi compagni, e sono i tempi, e sono se noi, vengo, intende, perché ti rancuri le offese degli ubriachi e capisca che ti urla ti urla molto tal bande in giro. pazzia, tiene l'ora qua dentro, all'agenzia starebbe molto meglio. Postiglione, conosci Giovannina, Nina?

son messo in cammino. E tratto sol dal fascino dell'oro. E questo in sole non m'ha ingannato. Giocare il vostro nome.

Thank you. Thank you.

andiamo a dormire. Grazie, ora son calma. Andiamo. Se volete, io resto. No, buonanotte. Buonanotte. È stato vano. fine traportante, uscire, no. Entra, no. Entra. Non credete, non puoi uscire. Entra, no. Entra, no. Sta per seguire, non sapete. No. Se verrà, nascondi, nascondi. Aprite la porta, voi, voi, uscire. Russa, no. Sceriffo a caccia del tuo Johnson d'inferno. N'ho seguito la traccia, deve esser qui, dov'è? Oh, avete seccato con questo vostro Ramirez? Ne son certo, non può esser fuggito, non può esser che qua. Thank you. dice Grazio. Guarda, il sangue ancora. È là, è là. Sacramento, la scelta noi, accorda la pistola. Pronto, taglia, a te. Oh, due mani sopraffrì. Quante? Due. E anche tu l'adori. È un paio. Niente. Pari, siamo pari. Evviva. Ora è la decisiva. Sì. Taglia. E t'avrò fra la mia braccia. Vedi, vedi, ti vinco. Presto già, per pietà. Ma che cosa stai? Che devo darvi? No. Alla bottiglia. Vedo, agli chiari dov'è. Presto già, fino a chiedo per pietà.

necessario, troppo le dobbia. E tu, mio trino, poi rifila. E giriti anche tu, non scrivi le brigi. E nel suo dritto, e partiva, è necessario. Vorrà. Il tuo buon mare. I padroni siamo noi, andiamo. Il tuo buon mare. Andiamo, ragazzi. È necessario. Non lo vorrei. 今天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎关注北京音乐广播古典有限频道下面的